la ragazza voleva andare, che è a Cusciari Donna col caravan, hai capito? Un continentale, gli ho detto, ma dammelo chi, gli ho detto, cosa ne so, gli ho detto, stavi a Sassari, gli ho detto, ti fai un giro, magari è tal centro turico, li trovi. Tu dovevi rispondere, vai con tua sorella, che sei meglio. Mi ha fatto a me, sentivo bene a me, non ci voleva credere che io la stassa lì. Lui era lì a Cusciari Donna, era. Arrivava a 9 qualche cosa, ci ha parlato per quasi un'oretta, poi ha chiuso perché sta parlando con un amico suo, c'era il Brondi, quel portatile lì, e sono lì campeggiati tutti e due, lui e l'amico suo. Altrimenti avrei detto, guarda, appena finisco con tua sorella te la rimando, così ti divertite. Avanti, ma poi tu eri poco fa. No, per il mic che sto usando, se sembra un mic normale o un minimo di amplificazione c'è secondo voi, perché non amplifica nulla questo mic, tantomeno su questo apparato. Con l'amplificazione non le sento. Ok, da, va bene, da, però è l'unico compatibile da, che mi è rimasto con questo apparato, va bene. Chi vuole entrare? Avanti, c'è qualcuno? Comunque la radio è perfetta, eh. Eia, beh, almeno quello, dai. Eia, eia. Sì, questi ZG da palmo amplificano poco, cioè non spingono più di tanto, poi dipende su che apparato lo metti. Ok, riprendi Antonè. Non c'avevi quei microfoni famosi, vecchi, con la batteria da 1,5. Io ti chiudi quelli, io dico che amplificava parecchio, poi adesso non lo so che in che palatino ce l'ha infilato. Allora, questo è un Intech M150 Plus, altoparlante frontale e niente smitter. No, io l'avevo ma era distrutto, non funzionante, da vecchio di 35 anni. Non solo, Antonio, ma ti dico che in qualche paese d'Europa, credo all'est, li vendono di nuovo quelli con la batteria da 1,5. Ha un nome diverso, però la forma è rimasta uguale. La rotellina sopra ci hanno, però la timbrica è troppo acuta, capito? Metallica, non sono un granché. Ah, ho capito. Non lo conosco quel battito lì, se trasmitter. Vabbè che sono battiti tutti strani, adesso stanno orando. E stanno vendendo, quindi vabbè. C'era uno l'altro giorno, stava vendendo 7-8 alimentatori. 100 euro, gli hanno preso in faccia, gli hanno visto. Non funzionava manculo. Sì, questo è multi standard pure, c'è scritto anche sopra, me l'ho pure dimenticato, quindi sai, i canali inglesi, i canali tedeschi in FM che sarebbero qui i 40 sotto, i 34 canali anche italiani, capito, puoi fare 40 canali o 34 canali. È interessante perché sai cos'è? Se tu vuoi uscire con meno watt, tipo un watt anziché 4 watt, metti la banda tedesca o francese, non mi ricordo, praticamente via 4 watt FM, però solo un watt in AM. Poi la capellica, cazzo, mi ricordo di quella cagata che ho comprato, me la vado regalato. Ho regalato quello, ho regalato l'antenna, l'alimentatore da 20 ampere, comprato dai cinesi. Ho fatto tutto fuori, ma ne avevo le pallettine di vedello. Quella parecchio famosa l'aveva comprato anche la Carino. Ho regalato tutto a cosa? Antonello, ho regalato lì, ce l'ha lì a casa sua, nella villetta ce l'ha. La canna da pesca con il cavo del G58, l'alimentatore, ha aiuto qui di tutto. Basta che me lo fai sparire, gli ho detto. Sì, aspetta che provo il bip pure. Questo è il bip di serie. Che brutto che è. E vabbè, meglio di niente, cioè. Se così mettiamo tutti anche quelli del mic, stile pomponi, o mica così, guarda. Sì, ce l'ho ancora il bip di quando ho 4 ottobre. Ce l'ho conservato fuori dalla scatola. Devo metterlo nel con le 4.000 che mi ha tutto. Ce l'ho il finale. Avanti, avanti. K, va bene, adesso tolgo tutti i bip, dai, sennò vi mangio il cervello. Guarda un po'. Con l'essenza e così con bip. Sì, è bello il Sadelta, Prima hai detto Sadelta, è una bella timbrica. Il Master Plus è? No, è il CM40 Special. Se mi busco quello che avevo prima, il Master Plus, quello c'ha 6 cavi. Non faccio altro che agganciarli quei 6 cavi, così mi alimento il microfono direttamente dall'apparato stesso. Adesso lo cerco su internet, volevo vedere com'è. Riprendi Torino. Io sono impegnato un po' di farlo. Ah, ecco, ma la forma è simile, Antonè. Il gambo stretto, vedi? Due slider, tasto rosso e il V-meter. Esatto, sì. Invece questo c'ha il compressore in più, c'ha questo e basta. Questo sto usando io. C'è il compressore microfonico. Ehi, aspetta, senti che rumore. Il microfono non di plastica, è proprio fatto di cartoncino il microfono, per carità. Sì, vabbè, non ti ricordi quel microfono di quel barattino, adesso leggero, adesso lo apro, adesso c'era una capsula, più che capsula, un autoparlante, quando l'ho visto c'era 150 ohm, vai, gli ho detto, ma neanche ne attacco. Sì, è bello plasticoso questo, perché io ne ho avuti di plastica tuttora, ma non fanno rumore, senti questo come lo tocchi. Come si chiama al monte mi porto i portati da casa e mi faccio il giro di canale, perché in che canale sono quei blondi. Ma che portati le vuoi dire, 27 MHz o PMR? PMR, stanno usando i blondi lì dove si butta la mondetta di fronte alla questura. Ah, non capisco. Ah, hai ragione, all'autoparco mi pare di aver visto dei PMR e si riconosce la forma, no? Un po', cioè non sono apparati professionali, sono tipo, l'aspetto è più così, gigionesco. E ti volevo dire, ma tu che sei in alto, PMR, c'è il giro di PMR che c'era prima? Vabbè, prima c'erano tutti quelli di questa presunta emergenza sanitaria e anche altri servizi, taxi, taxi, scuola guida, sentivi, e anche altre cose. Ehi, ci sta. Non è stata da dieta a questi, sono bassi ma già si sentono. Sono 446093. Sì, il canale 8 proprio, l'ultimo canale. No, è l'81 l'ultimo canale, sono fuori io, sono fuori in banda. Quindi questo è il 9. Poi c'è il 10 che è il canale a frequenza 106 e l'11 118.85. Aspetta Antonio, guarda che 081 è il canale 7 e 093 è il canale 8, ma non mi dire che ho sbagliato a impostare le memorie, no? Ah, c'hai ragione, sì, 7, c'hai ragione, 4, 7, 8, 1, è il canale 7, giusto, canale 8, giusto, 4, 7, 93, 75, poi c'è il 9, che c'è in pratica 446.106.25 e 10 è canale 446.118.75. Sì, perché i canali sono diventati da 8, mi pare 16 canali, li avevano aumentati, no, i canali. Però i portatili vedo che i veri PMR continuano a farli con 8 canali, cioè 8 frequenze, capito? Ogni canale, vabbè, corrisponde a una frequenza. In realtà li hanno aumentati a 16. Praticamente si condividono i canali con anche quelli digitali. Quelli digitali sono tra un canale e l'altro, cioè tra un canale e l'altro analogico si trova il canale digitale, capito? C'è la tabella delle frequenze, ti ricordi quelli là? Sì, già lo ricordo, già lo ricordo. Che uno sta vendendo DMR analogico digitale, 100 e passa le ore. L'ho visto l'altro giorno, io vedo che mancante, 100 watt di meno come costo, ma devo mettere, mi basta questo che c'ho a lui, e basta e avanza. Poi c'ho l'altro, quello cinese, devo cambiare l'integrato, il tassista d'audio. Adesso come c'ho un po' di tempo, però via che mi pusco lo schema, perché no, lo schema non ce l'ho, per sapere come si chiama il transistor, me lo ordino, poi lo distacco io e glielo metto nuovo io. KK, aspetta un attimino che mi scarico il manuale di istruzione di questo per vedere come il multistandard come si attiva. Ah, ok. Chi è là? Giuseppe Antonato, sono di MB più 4. Come Antone? Giuseppe Antonato, siamo di lato MB più 4, deve essere che volevo ripetere la stazione. Siamo venduto tutto, mi ricordo. Tanto tempo fa. Peccato che la Intec abbia chiuso però, Qui abbastanza da tanto anche ha chiuso. Ha cominciato a produrre sempre meno baracchini, poi vendeva un po' di tutto, non di roba elettronica. E poi ha chiuso, non si trova più il sito, proprio sparita nel nulla, dai, dopo tanti anni. Se tu vuoi comprare un po' di apparecchi, c'è uno che sta vendendo 12.335 in Sicilia, radio di trasmettenti di varie tipologie. C'è la IAES, l'Atlas, il Sommer, l'Incom, c'è un FT7B e un Kewood, se lo vedo male. Aspetta, riesci a vedere? 4.6. Questo è un cazzo, 140, completo con l'alimentatore altoparlante. C'è anche l'FT7B. Qui c'è questo Atlas, non ho capito cosa sia. Via. Ah, questo è bello, cazzo, questo sì che quello costa, ne vuole 12.000 passa io. C'è uno di ultima generazione, tutto digitale, poi c'è una valvola NFT101. Questo è bello. Beh, questo manuale non salta fuori, Millomi, aspetta, manuale italiano, sì, c'è. C'è il manuale di servizio, lo schema per la modifica, adesso mi scarico i file. Anche la linea 3 che c'è, completa. Cazzo, 12.345 euro. Sono il compagno della macchina. E vabbè, se qualcuno vuole investire lì, però è poco da investire, c'è qua, non andare a perdere. Infatti non è arrivato un cazzo da nessuno ancora, alcun commento è arrivato. A caro Jesu, tipo quello che mi ha detto tu, forse è l'8, 7, non lo so, 5-7, l'altro modello, questo è per Jesu. E poi c'è la roba, lui è bello, la verità, questo di ultima generazione, che c'ha display a colori, ti segna la frequenza, c'ha tutto. Guarda che era bello, quello costa minimo 2000 euro, grazie. Ma lo sento io il bip strano, un suono strano il tuo adesso. Fa niente. Sono la batteria scarica magari. No, adesso è normale, non so se dipende da qua. forse come c'è lo squadro inserito te lo silenzia, mi capito? Come entra il bip e te lo chiude. Ho capito. Comunque il bip più voluto del mondo ce l'aveva Clementina. Quell'apparato, che apparato era, te lo ricordi? Un Superstar 360, se non mi ricordo, un 3006 o un 360 era. Strano, perché il 360 FM, cioè il 3006 insomma, quello che aveva il bip tipo il normale Superstar 3009, quello invece faceva te lo ricordi che brutto, ed era, ce l'aveva solo lei così, a meno che non fosse mezzo andato il bip, no, la circuitazione, e quindi facesse un suono così strano. Sì, io questo momento lo metto io. Ah, quello è il bip del poi che c'è il bip strano, il multimode, e poi la faccio l'LMS 200. Quelli li avrei voluti, sì, LMS 200 e la Gain Quinto, mi piacevano parecchio quei bip. Poi vabbè, gli apparati erano tipo ultimodemi, la scheda è là, quella famosa Cybernet, prendevi colpi da tutti praticamente, no? Adesso andrebbe bene perché negli altri canali non hai nessuno, non c'è un'anima, capito? Ma all'epoca era proibitivo. Cazzo. La Gain Quinto, sì, esatto. A me sta facendo il microfono amplificato come uguale, identica all'M300. C'è un tipo sta vendendo la 48. 150 euro con microfono amplificato. No. Cavolo, sono diventato, so, qui c'è cosa c'è di buono, c'è. Vabbè, questo è un negozio. Via monete, ciò. Cazzo, c'è un sacco di monete male. Solo che non c'è un negozio di numismatica qua a Sassari. Numismatica hai detto? C'è un sacco di monete rare, capito? Ci manca un negozio a Sassari. Sì, quando ero ragazzino c'era in quella via centrale di Piazza Tola che scende, che poi fa il gomito e va a sbuca al corso, lì all'angolo c'era numismatica, ma stiamo parlando di 40 anni fa. Vabbè, la parola è più nuda, me l'avevo detto anche Natalino, non avevo capito c'era il coso lì, quindi figurati, la parola è più nuda a mandare la roba fuori, io non ci penso nemmeno, se non mando le monete è capace che invece ciao buonanotte, arrivederci. Ehi, dovevi valutare qualcosa, banconotte, monete? Ah, sono le monete del fascismo anche addirittura, capito? Prendermele più che altro, capito? Intanto sono buttate dentro un coso, non so cosa cazzo farne. Se magari qualcuno, se conosci magari qualcuno che è appassionato, me lo fai sapere, glielo faccio vedere, e poi mettiamo d'accordo, non è quello il problema. La prima macchina che l'ha messo a me, della Citroën. Il problema non è adesso le porte, cioè le porte al contrario, ed è 50 la macchinetta della Sito, in due persone ci puoi stare, ed è seccata naturalmente, questa stamattina entrare a fare benzina, e benzina, andare al bar a fare benzina lui. Eccolo qua, di due, 40 canali FM, 4 watt e 40 canali AM, 1 watt. Adesso provo. Com'è il segnale? Guarda. E vediamo se c'è la variazione. 9,22. Ehi, ma aspetta che ho guardato la tabella, non ho guardato il procedimento, aspetta. Allora, un attimino, Come cacchio si fa? Allora, spegnere la radio, premere e tenere premuto il tasto up e accendere la radio. Aspetta. Sì. Appendane, poi prendere damper, due secondi, ok, per confermare. Un attimo e procedo, arrivo subito. Eia. Ci sei? Ci sono, sto guardando, stavo cercando un videocassetta, ce n'è una che vale 12.000 euro, ma non so quale. Devo essere quelle di Walt Disney, una cosa del genere. Anni 90, poi va veramente Netflix, eccetera, eccetera, non è vero. Che predatori di vacca perduta, eh. Cazzo, Indiana Jones. Allora, è che non ho controllato l'assorbimento prima, vabbè, lo controllo dopo. Non sale quasi. Ha variato il segnale? Prova. Sì, è diminuito. Quant'è? 9,10, quasi 9,15 a picchi, sì. Buono a sapersi. Praticamente se devi pilotare qualcosa di con un watt solo, metti in modalità EU, Europa, praticamente è solo in AM, ti scala anziché 4 watt, un watt ti dà. Un watt, me la ricordo questa cosa. Buono a sapersi, dai, adesso lo rimetto come la prima. D'accordo. Vendo Itera PD a pigliare il culo, particolarmente balle. UHF analogico digitale, completo di ballo, accessori in dotazione più cavo di programmazione, continua a leggere. Prezzo compreso di spedizione, 160 euro, ma che pazzo questo. Stavo notando, vabbè, c'ha Italia questo, Italia 2, 34 canali, no, 36 canali, strano 36, come mai? Non 34, vabbè, poi verifico, poi c'è Germania, che hai 48 in FM, poi vabbè, Europa è questa qui che ti diminuisce la potenza in M. Poi c'è CEPT, 40 canali solo FM, poi canali inglesi, quelli in FM con le frequenze strane, e i canali polacchi che hanno lo 0 finale anziché il 5, insomma, tutte le bande aveva questo, mentre i multistandard di adesso sono molto più semplici, hanno meno bande, meno... vabbè, quelle che servono e interessano ci sono tutte comunque. Va bene, adesso lo rimetto com'era. Rimettilo. Mamma mia, assorbe poco e niente questo apparato. Dovrebbe essere ritornato normale, io non ho il watt metto qua montato, Vendo nuovo dual band 50 watt con microfono wireless, 110 euro, qualsiasi prova. Si trova di tutto. L'altro giorno stavano facendo vedere la pubblicità del... credo sia un aspirapolvere, dai, una specie di aspirapolvere strano, no? Con un cilindro orizzontale, alimentazione a pile, addirittura c'è un laser verde per farti vedere meglio la polvere per terra. Quindi alla fine però cos'è? Un volgare aspirapolvere, 900 euro. Boh. Cioè, a parte uno dice, ma se uno può spendere, li spende. Sì, ma non so se valga i soldi. Un aspirapolvere a pile. La batteria, tu dici pile, io ti dico pile, 900 euro, ma... Ce ne sono tanti, dico che ormai costano così, adesso non mi ricordo la marca, già ho capito quale stai dicendo, costa intorno a quel prezzo. C'è il Dyson, c'è il... come si chiama? La Folletto. Sì, Dyson, molto avanzati, però questo baracchino consuma poco e niente, siamo sotto i 2 ampere, molto sotto i 2 ampere. E d'altronde qua non ha smitter da illuminare, cioè proprio il minimo sindacale questo apparato. Questa macchina, anche se te lo rubano, non te ne fotti nulla. Questa è ideale da lasciare in macchina, fisso. Se te lo rubano, pazienza. Vabbè, mi dispiacerebbe perché non lo trovi più. Se lo vai a prendere, non lo trovi più nuovo. Sì, già lo so. Ma solo che gli apparati 40 eccetera eccetera, quelli che hanno come vendere, ce n'è qualcuno, ancora qualcuno ce n'è. Beh, Anto, come va? C'è anche Antonello qua, stavamo parlando dei baracchini, di roba in vendita, di aspirapolvere, eccetera. Ah, vai Antonello. Segna che avanti. Buonasera, ti sento un bel basso. Ma che 5? Ma intende disegnare Antone? Sì, io qua non ho smitter, però dalla dissezione mi accorgo che non è un segnale forte, potrebbe essere sotto il 9, appena sotto il 9. Adesso ti ho sentito meglio, quasi 9. Vorrei mettermi, quindi andare quella. La vada giù in peso. Ah, ecco, sei fatto quello. Che bello. Aspetta, c'è quello, ma cosa aspetta? Adesso guardiamo un po' questi visiti. Ehi, guarda a vedere Antonio adesso. Adesso gli attici hai tanto. Ma poco fa non c'è niente. Quasi nulla. Allora ti intendo. Sì, vabbè. Hai messo poca roba sotto. Sì. Quant'è adesso da casa? Sei 9.10. Guarda, vabbè. Io vado qua di quanto a me. Guarda, segnale io come. Prova. 1, 2, 3, 4, 5. 15. E qui che è 9.20. Questa vaga. Un'altra casa, no? Cacciato la figlia di via bocca presa. Ma lì basta che ci metti la pena, lo vedi come dici. Se mi va anche un'altra la gamba sua, lo vedi come dici. Vicino va bene, se mi vanno di poco magari arrivi tu di fuori, però quanto è libero? Sì, ma ieri c'era un coso, un bazooka c'era, tanto io, lavoro, stavo lavandendo, e lo voleva comprato, modificata la carica, messa più grossa, sai, un buon papà, un treno era. L'ha fatta a cosa, a Nico, fratello di Giuseppe Leoncino. Quando l'ha piazzata in barca, la dove bazooka era, arrivava ben forte, arrivava. Quando l'ha aperto il bazooka originale mi sono messo a ridere, c'aveva il filo che era a fine, ma sai quanto è fine? Secondo voi Marco, quando ci mettevi 50 watt ti rimaneva in mano quel campo. Ho preso e gli ho messo la carica della PDC1000, immaginati, 5,50 di quel filo di giro. Fatto giusto a misura, infilato dentro, bloccato, ho messo il coppeggio, ho fatto i collegamenti 1 e 1 di stazionale, quando mi è stata fatta con l'altra lì aveva 1 e 8, 2, non c'era messo mi farla scendere. L'ho installata 1 e 1, ma è stato dal terrazzino mi ascoltavano tutti. Si poteva anche fare la modifica mettendo in bagno di radiali di quelli corti e usciva benissimo. Ah, quindi la bazooka all'interno ha l'equivalente di 5 metri e mezzo di cavo, come fosse una mezz'onda, così è. 5,50 l'ho misurata, smontata e misurata, 5,50 di cavo. L'ho tolto quello, gli ho messo quella della PDC 800.000, quello ramo, il cavo di rame è quello grosso. fatta così, ma un treno, un treno con l'antenna, piazzata lì nella barca, la piazzata, funzionava benissimo, senza massa, senza nulla. Io ricordo che stazionaria non me ne dava mai, che la mettessi nel ballatoio lì nel terrazzino, che la mettessi sul terrazzo o sulla ringhiera col paletto, sempre uno e uno, e non avevo rispettato nemmeno la lunghezza del cavo, perché sul manuale ti diceva delle misure di cavo predefinite, diciamo. Io lo mettevo a caso, tipo 10 metri, e funzionava, qualcuno gli dava stazionaria spesso. Allora prendo la bottiglia dell'acqua, riprenda chi è rientrato, già ne impari. Ehi, ma la bazooka qual è? Quella che sembra un mangarello? La bazooka quella che sembra un mangarello, bravo, sì, quella lì. E si può aprire quella? Io pensavo che fosse chiusa come antenna, che non si potesse aprire. No, da sotto si apre, capito? Dalla base da di sotto. Mi sa che il PL esce tutto il pezzo intero, esce, perché c'è in pratica un tubo di plastica all'interno e uno all'esterno, hai capito? In quel pezzo di plastica che c'è all'interno c'è la bobina, c'è, parte dalla PL e sale su, capito? Dopodiché mi metti l'altra plastica, che quella originale sotto, la incolli ed è perfetta. Un treno era quella, la bazooka, veramente un treno. C'era... Dico c'era. Dove c'era dentro alla... Se non l'ha regalata a Giuseppe, c'era ancora lì al circolo. C'era quella come antenna, poi gli ha volata anche un'altra, addirittura. E dove pigliate tutti e due e usi in barca, gli ho detto. Poi la barca l'aveva venduta e dovrebbe c'era lì nel circolo con quella antenna. Si trabagava. Con l'antenna lì normalmente non rende, se non è che la modifichi, ma normalmente è a bocca resa con l'antenna. Io l'ho avuta una volta, non mi ha soddisfatto nulla. Avanti Marco. Sì, già, quella è un'antenna per emergenze, cioè metti che uno gli si spezza la verticale, può mettere quella lì lunga un metro, però se la metti in alto sul tetto per la città riesci a parlare, capito? Certo, se la lasci dove sono io, dentro il terrazzino, al piano rialzato, circondato il palazzino, non andi a lungo. Però se la metti sul tetto per emergenza, che ne so, nel frattempo che ordini un'antenna nuova o in attesa di piazzare l'antenna nuova, in città funziona. Sì, Anto, quando eri nella casa a Sassari Vecchia, no? Bianco che mi chiama? Bisogna provare, tutto, se si riesce a modificarla a farlo andare lì. Ma penso sicuro se nella via 27L si cambia il basamento e si mette un basamento totalmente diverso e gli metti il rame molto molto più grosso, quell'antenna diventa un treno che venda, figurati tu. Ma devi sempre fare le modifiche lì, se no come dalla fabbrica non vende. No, già, vabbè, la via 27L così com'è vendeva, però più di 500 watt non ci potevi, anzi 500, con 300 watt non potevi caricarli, però se cambi il rame, li cambi, cioè in pratica la base sta proprio vera e propria dove c'è il rame, e gli metti il rame più grosso, basta che gli fai le spire e lì al centro dove in pratica va cortocircuitata, perché c'è un pezzo che va cortocircuitato, e poi sale direttamente su e c'è una specie di piastrina a fine fine, e lì a metterci a posto di metterci la piastrina, non fai altro che metterci un bel Victoria quelli una vite con gancetto per poter lanciare direttamente via lo stilo, capito? E la tela renderebbe molto meglio, il discorso è quello. So che è fatta così com'è, ya lo sai, la plastica è leggera quella lì, a volte secondo che vento fatti si spacca, capito? Il punto debole è quello. Avanti Marco Mondo, avanti Antoine. Ciao ciao. Non la carica quando la fai. E allora sta leggero, perché se no ti viene sonno. Lo so, dura ma si guadagna, è dura ma si guadagna. E allora che ci sia sempre tu, almeno non puoi andare avanti tranquillo. Va bene, d'accordo, avanti Marco, complici, Marco ci ha sentato. Sì, Amaro ci ha sentato. Ciao a tutti, ci sentiamo, se fa la notte ci sentiamo al limite domani, non c'è problema. Mi parlate del pavio, non ho fatto più, ho fatto i bini. Il pavio è abbastanza bene. Poi la notte si può anche fare, non è quello il problema, di fronte che si è imbagato da voi. Sì, sì, sì. Magari è già pagato lui, però è un po' straziante fare la notte. E dico che ne fa la guardia giurata direttamente. Io lo so, io lo so. Quando fai guardia giurata, vabbè, o ti avata, una cosa del genere. Eh no, la guardia giurata in sé è armata, è tutta armata. E prima mettevano la guardia giurata, adesso stanno mettendo ragazzi così per fare i custodi. Esatto, sì. Ma dire senza armi in pratica, fare custodi. Notturno. La fanno in albergo, vedi, in albergo, ho chiesto un albergo di qui prima di aprire le case. Sì, fa poco. Ma io fame. Ho conosciuto il custode io di qua, perché c'era buttata mezza matassa di fili di ferro, allora c'era un buco nelle cose, nell'angolino. Prima di entrare nel garage. E sono stato a casa, ho preso l'ombrello. Aiuto, esce per se riesco a prenderlo quel pezzo di fili di ferro. Invece col cazzo, arrivare con lì al fili di ferro ci mancavano ancora mezzo metro. Cazzo. Allora cosa ho fatto? Ho preso e sono andato al bar, sono andato e poi è arrivato lui. Dice, ti ho visto, mi ha detto, ti ho visto, ti volevi fregare il fili di ferro. E gli ho detto, ehi, gli ha dato un buttato, gli ho detto, volevo portare via. Dice, no, non è stato, non me faccio niente, pigliatelo pure, ha preso, me l'ha portato, ma le risate, cazzo. Perché mi ha visto, da lontano mi ha visto. Poi mi ha invitato coso, Torino, lì al bar, c'era una pizzata in pratica, gli ho fatto la bere a quello là e gli ho chiesto se c'era, se si va qualche custode, oppure tecnico per lavorare, paghi tutto in pratica, invece mi ha detto no, sono già in due, mi ha detto se no volentieri ci avrei la richiesta a partecipare. Cavagava, ho capito, capito, ma magari vai che l'altra non la fa, vai, saluta ora. E adesso vi faccio la pizza, la metto nel forno e gliela faccio. 10 minuti è pronta, quello dello spesso, quelle quadrate. Cazzo, due sono altre 700 grammi, e tu questi sono matti, erano più piccole. Quindi va bene a mangiare, adesso devi dividere in tre pizze. Costa 3,50 euro costa. Io c'ero sotto a casa la pizzeria, qual è il problema della porta, lo scino a casa. Quattro pizze, anche se io vuoi. Quattro pizze per Italia non le mangio. Non mi fido più. Ce lo sai, capito? Con le pizze non è che mi fila molto. Purtroppo, mi tengo tutto sotto controllo piano piano, quindi lascio così il condimento che c'è e poi me la mangio un pezzettino piccolo. Il mio me la mangiavo anche 3 o 4. Ora quando mi veniva questo caso di disunimenti. Hai capito? È un casino. Adesso me lo vale il coso, il 14, cioè il 16 c'ho la visita per farmi controllare queste placche. Vediamo cosa diavolo mi dicono. Ma non ho ancora capito, ma che cos'è? No, devo fare questa visita qui, sono caduto? Due settimane fa sono caduto davanti alla porta di casa, sono andato a ritirarmi il cellulare, lì me l'ho lasciato sopra al tavolino, a recuperare il cellulare, bello tranquillo, torno indietro, arrivo a portare di casa, abbiamo le chiavi, cazzo, ci sono parato. Mi sono sbattuto il naso, mi sono sbattuto e mi sono prestato la bocca con i denti. E quindi come sono caduto con le ginocchia e i gomiti, quindi mi sono fatto male. Allora, tutto su questo non ci sono andato, intanto lì. Quando vai lì ti tengono 24-48 ore e non ti vado di nulla. A un certo punto sono rimasto così, mi sono tenuto i dolori. Adesso dopo che mi fanno quella visita ci vado e mi faccio controllare, avere un pochettino a vedere se c'è qualche problema, magari qualche lusazione. A me fa il fatto che tu sbaglia così non è normale. C'è qualche cosa che non va. Ma non passa ossigeno, non viene ossigenato il sangue al cervello. Qualche cosa c'è, sicuramente sono quelle placche che ti danno lo stanno del problema. E infatti devo essere quelle placche lì senz'altro, perché il collo in pratica rimane leggermente gonfio, adesso è sgonfio, capito? Poi ci sono giorni, per dire, la mattina se sento senza fare colazione mi sento tutto strano, mi sento. E lì ci sono le gambole linfatiche. Allora vediamo il 16 a vedere cosa diavolo mi dico, parlo con loro e vediamo un po' cosa mi dico, magari mi manderanno lì a come sono. Un attimo Simo, vado lì e mi faccio controllare tutto, perché c'ho anche la cervicale che mi crea problemi, capito? Forse che sia anche la cervicale che mi tocca e non mi fa passare il sangue al cervello, niente di strano. Perché comprime, già lo sai, nella cervicale dietro comprime la vena e non ti fa passare il sangue. Ma la cervicale non fa queste cose, la cervicale ti fa capogiro, vedi sdoppiato, ma queste cose non se le fa. Ma guarda, ti lascio che se no Simona ti picchia. Ciao, saluta la. Sì, d'accordo, io ti saluto, adesso vado a mettere a dargli da mangiare, cazzo. Allora non sperare se non fa niente. A voi sentiamo. Arrivederci dopo, dai, ciao. Mi andiamo solo a mangiare il zinco. Ciao ciao. Sì, adesso saranno che adesso per 7 saranno come minimo. Che si avviene, no, non ce l'ho qui 16, ce l'ho la tappa. Vabbè, a dopo. Le 8 meno 10, Alex. Ok. Va bene, ora già è l'ora giusta. Bravo, ciao. Ciao Antonio. Ciao a tutti, io sono più quello che sono all'ascolto. Ciao, ciao a tutti.